Coccolina, cia cia cia, picco piccolina, cia cia cia, biri birichina. Tu fai tutti innamorà con le tue moine, cia cia cia, dolci da gattina, cia cia cia, cocco coccolina. Tu vuoi tutti conquistare? Hai 16 anni compiuti da un mese e già ti tingi gli occhioni di blu. Sai dire t'amo in francese e in inglese e a tutti quanti vuoi dare del tu. Cocco coccolina, cia cia cia, picco piccolina, cia cia cia, biri birichina. Tu fai tutti innamorare. Tutti quanti vuoi dare del tu. Cocco coccolina, cia cia cia, picco piccolina, cia cia cia, biri birichina. Tu fai tutti innamorare. Coccolina cia cia cia, piccolina cia cia cia, birichina cia cia cia, tu fai tutti innamorare.